Mix 24 di Giovanni Minoli. Ho scoperto una cosa interessante. L'intero mercato immobiliare si regge su prestiti a rischio. Non possono durare. Il mercato immobiliare è solidissimo. È una polveriera. L'economia mondiale poteva crollare. Le banche hanno frodato gli americani. La Cina crolla e affonda le borse europee. La settimana dei mercati finanziari comincia nel modo peggiore. A Milano lo spread risale a quota 135. In rosso tutte le borse europee. Crolla quella di Atene fino a superare il meno 8%. A limone, meno 5, meno 50, così. Dunque lunedì nero anche oggi, le borse perdono a rotta di collo, dall'inizio dell'anno hanno perso il 20%. Isabella Bufacchi, buongiorno, giornalista del Sole 24 Ore. Buongiorno. Ecco, gli analisti sembrano abbastanza spiazzati. Che cosa è successo di imprevisto? Beh, direi che è una crescita che è peggiore di quanto i mercati avevano previsto. Ecco, c'è crescita, quindi sebbene le borse crollino, c'è ancora crescita in Europa negli Stati Uniti, però meno di quello che i mercati si aspettavano. Poi la Cina che rallenta e nell'Eurozona in particolare c'è una situazione ancora troppo frammentata per i mercati, sia politicamente che finanziariamente. Insomma, se noi vediamo oggi i giornali, si parla di Grexit, insomma sono anni che si parla di Grexit. Certo, ma il fatto che le banche italiane perdano più di tutte significa che il sistema barcolla? No, direi il sistema bancario italiano è solido e il sistema bancario complessivamente è solido perché dopo Lehman sono stati fatti molti più controlli, si corrono meno rischi e poi è anche un problema generalizzato, non sono solo le banche italiane, insomma tutte le banche europee in borsa hanno perso dall'inizio dell'anno. Ecco, ma quali... quello che, però secondo me quello che barcolla, e questa è la cosa più seria, è la fiducia nelle banche. Sì. Ecco, più che le banche. Ecco, ma e quali sono le responsabilità maggiori delle banche italiane per questa crisi di fiducia? Ma le banche italiane hanno un modello molto semplice, tutto sommato, sono banche commerciali che prestano denaro a imprese e famiglie. Solo quando c'è una recessione i loro bilanci sono colpiti di più, proprio perché hanno un modello, diciamo così, semplice, non hanno titoli tossici. E poi noi abbiamo però un sistema bancario troppo sul quale si affida l'economia quasi completamente, quindi su tutto il sistema bancario italiano si regge la finanza al sistema economico. Ecco, questo secondo me è un sistema non equilibrato, però non è colpa delle banche italiane, è proprio che noi dovremmo creare un mercato dei capitali. Quindi ma le sofferenze bancarie opache sono loro che hanno fatto traboccare un po' il vaso? Beh, la parola opaca, diciamo, dopo la crisi Lehman, in realtà i riflettori delle banche centrali, delle autorità di controllo sono stati proprio puntati sulle sofferenze, quindi le sofferenze sono meno opache, vengono studiate molto di più, c'è più trasparenza, però il nostro problema è in realtà quello delle banche italiane, che il vaso delle sofferenze è colmo. Perché? Perché non sono riuscite a vendere queste sofferenze come hanno fatto invece in Irlanda, in Spagna, in Germania. Cioè, non c'è la bad bank. Non abbiamo fatto in tempo a farla, fatto tutti, e quindi queste sofferenze adesso in qualche maniera vanno smaltite, però sono coperte. Ecco, però questo vuol dire che nel sistema internazionale l'Italia è l'anello debole della catena. Ma l'Italia chiaramente è rimasta un po' indietro per questo problema delle sofferenze, e poi secondo me è anche un sistema bancario forse un po' vecchio, ci sono troppe banche, troppi sportelli, banche troppo piccole, quindi ci sono anche le riforme delle popolari, delle BCC. Quello che invece secondo me, più che l'Italia è l'anello debole della catena, è la catena che è debole. Cioè noi abbiamo un'unione bancaria europea che deve essere fatta più velocemente e meglio, proprio per ripristinare la fiducia nelle banche con complessive. Ma la volontà di fare questo dov'è? Ma c'è la volontà, solo che in Europa è sempre tutto molto molto lento, molto complesso, il dibattito. Ma nel frattempo c'è un tentativo di costringere le banche a ricapitalizzarsi? Sì, assolutamente, più che un tentativo è un obbligo. Perché? Perché dopo quello che è successo con la grande crisi e con Lehman, non dobbiamo più avere quei tipi di salvataggi che fanno crollare interi stati. Ecco quello che bisogna risolvere, ecco, la fiducia nel sistema, nel senso che non ci saranno mai più salvataggi come Lehman, e su quello però stanno lavorando con l'Unione Bancaria Europea, piano piano è lì che devono arrivare. Ma il fatto che il crollo sia generalizzato su tutte le piazze del mondo significa che la globalizzazione finanziaria non lascia scampo? Veramente? Ma direi che la globalizzazione, non so se è un bene o un male, è inutile rispondere a questo. Secondo me la globalizzazione è il futuro, non certo. Si torna indietro. Quindi il commercio è mondiale, la crescita è globale, la finanza si deve adeguare. Si deve adeguare, però diciamo si apre uno scenario inedito rispetto al quale non è che tutti sono attrezzati. Sì, io su questo sono d'accordo, per uno scenario inedito, cioè oggi, questa mattina abbiamo visto che i titoli di Stato giapponesi a 10 anni hanno un rendimento negativo e già si parla dei bond, dei titoli di Stato tedeschi. Appunto, che andranno sì. A un rendimento negativo, ci sono 5.500 miliardi di titoli di Stato in giro con rendimenti negativi. Questa è una situazione direi inedita, anche creata dal QE, dalle banche centrali, da un eccesso di liquidità, perché è inedito nel senso che se i rendimenti sono troppo schiacciati, troppo bassi, i mercati sono disorientati, non riescono più a capire se ci sono rischi, rendimenti adeguati. Bufacchi, ecco. Ma la ripartenza dello spread spaventa molto, è una paura legittima? Ma io mi sono veramente spaventata quando lo spread era a 575 punti nel novembre 2011, ora siamo a 150, quindi non ci dobbiamo assolutamente spaventare. Quello che può impensierire semmai è la velocità col quale lo spread è salito. Appunto, in questi si è raddoppiato giorni. In due giorni quasi, tre sì, giorni. Sì, è salito. Per questo perché? Perché il mercato sta ricominciando a apprezzare, a valutare i rischi dei singoli paesi dentro l'Europa. Questo significa dell'Eurozona, che non siamo riusciti a convincerli, che siamo tutti insieme. Che tutti uniti, non si vede questa unità. Tu hai scritto che il mercato è emotivo, impaziente, perché teme la complessità. Vabbè, ma la complessità è una è un in sé del mercato globale, no? Sì, diciamo che il mercato è emotivo perché è fatto di persone, non gli piacciono le cose opache quando non capiscono bene cosa sta succedendo. Per esempio ai mercati non piace molto la politica, il rischio politico, perché non capiscono mai cosa può inventarsi la politica, oppure ci sono le banche centrali che stanno creando un mondo artificiale di rendimenti troppo bassi. In realtà il mercato, tu dici è complesso, ma diciamo le regole del mercato sono invece molto semplici, cioè il prezzo viene fatto, deve essere fatto dall'incontro della domanda e dell'offerta. Vabbè, sì, il governo però sta rinviando la soluzione dei nodi strutturali che fanno scattare le clausole di salvaguardia del 2017. Al fondo di questa crisi ci sarà allora un'altra stangata per gli italiani? Io direi che la più grande stangata che hanno avuto gli italiani oramai per decenni è quella del nostro debito pubblico, cioè non dimentichiamoci che noi siamo il primo emittente, il più grande emittente di aste di titoli di Stato nell'Eurozona, più di 400 miliardi di aste all'anno, abbiamo molti titoli in scadenza da rimborsare, titoli di Stato, gli interessi sul debito sono alti e più paghi interessi sul debito. Questa stangata ci sarà, quindi questa stangata è probabile. Ma io penso invece che se noi continuiamo a crescere e cresciamo meglio, il debito si abbassa e quindi con il debito che si abbassa si abbasseranno anche le tasse e anche con la crescita. Quindi è un processo più lungo, quindi possono esserci delle crisi tra virgolette di crescita, cioè si possono temporaneamente pagare più tasse in alcune circostanze, ma l'obiettivo deve essere quello di crescere di più, di abbassare il debito e quindi di... Grazie Bufacchi, 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS. Mario, insomma lo scenario abbastanza complicato, anche doloroso. Ecco, tante sì. cose le abbiamo dette, le continuiamo sì. a dire, ma intanto non è che possiamo incidere. Bravo, molto sì. Sì. Beh, c'è qualcosa che ti sorprende di questa tempesta improvvisa, perché sì. l'accelerazione è stata fortissima, la velocità dell'up and down, cioè del sopra e del giù è molto appunto rapidissima, di difficile lettura. D'accordissimo sulla questione dell'emotività, che è palese proprio, certo. Però sai, ieri mentre dormivamo il mercato giapponese faceva meno 5,4%, quindi cioè sono tutta una serie di cause concatenate. Qualcuno dice il prezzo del petrolio che poi inciderà sulla crescita americana, secondo me non è così, perché tutti fanno l'esempio del Texas, ma il Texas è il 10% dell'economia americana, è diversificato, cioè ci sono alcune cose che non hanno in realtà ragione nei numeri. E tu? Mi viene in mente un libro di due grandi economisti americani, Shiller e Akerlof, il cui titolo è Animal Spirits, cioè la psicologia, certo. Beh, la psicologia che conta domina molto. Ma allora per un artista come Pietrangelo dovrebbe essere una lettura facilissima quella del mercato mondiale. Eppure mi sorprendo, perché mi sorprende l'afasia della politica, perché dentro la globalizzazione finanziaria ci siamo tutti, c'è la vita anche di chi non è tenuto a conoscere i misteri. Ma quelli non della sanno finanza. Niente, dai. E la questione è tutta qui. Anche a voler toccare, diciamo, il portafoglio, nessuno reagisce. Questa è la vera sorpresa, perché oggi, come non mai, serve la politica e non la burocrazia. Questa è la dimostrazione plastica di una rapina perpetrata non solo sul portafoglio, ma anche sulla sovranità. Bene, sulla sei sovranità. Diventato renziano? No. Mi piace questa cosa. Renzi lo fa per propaganda. Io se... è rimasto di stucco. Renzi lo fa per propaganda. Io, se posso permettermi un'evocazione da cattiverio, sono sempre stato dalla parte del sangue e contro loro. 800 24 00 24, numero verde 348 238 6666, l'SMS. Oh, cinnamon, where you gonna run to? Gli sbarchi degli extracomunitari provenienti dalle coste libiche sono controllati da cellule del sedicente terrorismo islamico. L'allarme al governo italiano arriva dalla Libia. Nuovo allarme dalla Francia. C'è il rischio concreto che i miliziani dell'ISIS si possano nascondere tra i migranti che viaggiano dalla Libia all'Italia, ha detto il ministro della difesa francese Jean-Yves Le Drian. L'Italia rischia l'ennesima procedura di infrazione dall'Europa per il mancato rilevamento delle impronte digitali dei migranti e la mancata creazione degli hotspot, strutture dalle quali i migranti dovrebbero uscire solo dopo un'accurata identificazione. Voglio rassicurare l'opinione pubblica tedesca, 100% della registrazione delle impronte digitali, ma anche dei riconoscimenti facciali. Noi facciamo anche le foto. Se l'Europa perde Schengen, a mio giudizio l'Europa perde se stessa. Dunque l'emergenza rifugiati, la minaccia terroristica hanno indotto 6 paesi, Germania, Austria, Danimarca, Svezia, Norvegia e Francia, a reintrodurre il controllo delle persone ai confini nazionali. Premier Renzi, l'abbiamo sentito, dice che l'Italia controlla chi arriva via mare, anche con riconoscimento facciale, cioè facendogli le foto. Ma la soluzione dei cosiddetti hotspot è in ritardo. Stefano D'Amboso, deputato di Scelta Civica, questore della Camera, ma soprattutto esperto di terrorismo, che da magistrato ha combattuto il fenomeno. Allora, onorevole D'Amboso, partiamo dalla sua regione, la Puglia. Da qui è passato uno dei terroristi del comando omicida di Parigi, Salah Abdeslam. Come è stato possibile? Beh, è possibile perché obiettivamente sui porti c'è un'attenzione che è adeguata, ma che prevede comunque la possibilità che qualcuno singolo... qualcosa passi. Sì, cioè, diciamola più semplice, i porti fanno un po' acqua da tutte le parti. È un'affermazione troppo forte, però oggi si sono intensificati i controlli sui porti anche alla luce di questo episodio. Senta, ma questi hotspot, insomma i centri di identificazione, servono oppure no? Servono perché sono obbligatori, perché secondo il trattato di Dublino, questo famoso sì, trattato di Dublino, certo. Necessariamente la prima individuazione poi cristallizza il posto dove deve essere rilasciato. Ma ce ne sono in Puglia, onorevole D'Amboso? È previsto che se ne faccia uno strutturato a Taranto. Quindi non c'è ancora? Non c'è ancora in una maniera così come insomma. Quindi non si può neanche dire che funzionano come dovrebbero funzionare, perché se non c'è non si sa. Ma comunque lo farà, non è un problema quello dell'hotspot, mi creda, dell'hotspot sarà fatto, cioè è soltanto una questione proprio di strutturazione, di collegamento dell'hotspot stesso con gli altri già esistenti. Vabbè, però per ora non c'è. Quanto costa aprire questi centri? Come cifre, francamente non io saprei dire, sì. però insomma è oneroso il problema conseguenziale, cioè, certo, perché se viene individuato un soggetto che poi deve rimanere in Italia, poi si aprono tutte quelle filiere di sovvenzione al richiedente asilo che sono costruite. Naturalmente. Senta, dottor D'Ambrosio, lei è anche esperto di terrorismo sul campo. Ma davvero esistono cellule o fiancheggiatori dell'ISIS che si infiltrano coi migranti? Cellule lo escludo, fiancheggiatori è possibile, ma sono anch'essi soggetti in fuga da luoghi di guerra e che sono così poco strutturati e non hanno trovato di meglio, non hanno trovato i soldi per l'aereo per arrivarci e trovano il barcone che comunque rappresenta un elemento di grosso pericolo anche per loro. Per quindi cui fiancheggiatori, ma poveri insomma, diciamo. Fiancheggiatori poveri che non vengono per un piano e per un programma criminale terroristico da svolgere. Ma possibile. Esatto. Ecco, ma il governo cosa dovrebbe fare per affrontare o gestire questi potenziali arrivi pericolosi? C'è una strategia? Ecco, sì, è una strategia in corso, non facile perché c'è una difficoltà obiettiva, che è quella di incentivare lo scambio di informazioni fra i servizi segreti, cosa che con il Nord Africa stranamente funziona bene perché non ci sono fortissime gelosie nazionalistiche. È a livello europeo che deve essere superata la cultura tutta nazionalistica e sentirci davvero europei, per cui lo scambio di informazioni fra i servizi segreti, fra le intelligence, come si chiamano appunto i servizi, dovrebbe migliorare necessariamente. Cioè funziona con l'Africa, non funziona con l'Europa, con la quale siamo invece, diciamo, teoricamente uniti. E perché ciascuna, nessuno si fida di nessuno, parliamoci chiaro. No, ma più che altro perché la cultura del servizio segreto è quello di tutelare gli interessi squisitamente nazionalistici, per cui finché non cresce questa, davvero, senso di appartenenza ad un'unica comunità, è difficile. Per cui il francese, per quanto dia l'informazione all'italiano e viceversa, tenderà a non dare quello che ritiene molto francese. Sensibile, troppo sensibile, certo. Sensibile. Ecco, ma l'intelligence partecipa alla procedura di identificazione, parlo di quella italiana? Sì, assolutamente sì, assolutamente sì. E in che modo? In che modo? Essendo presenti, perché appunto gli scambi di informazioni fra i paesi del Nord Africa e l'Italia funzionano e quindi c'è una presenza costante di rappresentanti appunto dell'intelligence, quindi dei servizi segreti, assolutamente sì. Senta, ma perché Renzi dice che li controlliamo uno per uno, addirittura con riconoscimento facciale, mentre sappiamo che non è vero? Ma perché oggi va detto obiettivamente che si è raggiunto quasi il 100% del riconoscimento, perché è un riconoscimento che ci viene richiesto proprio da quel trattato di Dublino. No, che ci venga richiesto lo so, che sì, sia fatto è un altro discorso. Gradualmente, perché c'è stato davvero un fatto epocale che tutti abbiamo riscontrato, certo, e analizzato, naturale. Per cui ci siamo arrivati. Ma ci siamo a che arrivati. Livello oggi, siamo oggi? 70-80%? Oggi voglio essere obiettivo e dire che siamo vicini all'80%. Vicini all'80%. Senta, quindi secondo lei quale potrebbe essere la via più efficace? È quello su cui si sta lavorando, è quello di creare dei grandi hotspot nei luoghi di partenza, questa è la verità, e quindi nel Nord Africa, nei posti da dove questi soggetti fuggono. È chiaro che in Libia oggi è difficile perché non c'è un governo con cui dialogare, con cui interloquire, è chiaro. È che praticamente impossibile in Libia. Oggi è praticamente impossibile e va detto che insomma, questo traffico di esseri umani rappresenta una grossa fonte di approvvigionamento per quella criminalità che sta lì, per cui ogni viaggio insomma, per loro rappresenta un elemento di grosso guadagno, per cui i criminali che sono lì non hanno nessun interesse a vedere istituzionalizzato questo, certo, rapporto con l'Europa. Un'ultimissima domanda, lei a quanto la dà la guerra con la Libia? la guerra intesa come una intesa volontà di come... Sì. Un intervento militare lo do al 95%. No, e l'Italia in quel 95% fa tutto, sì, capoguida, insomma, paese guida. Dovrebbe farlo per anche una così un'esposizione tradizionale che ha nei confronti di quel paese, ma l'Italia è già presente in tutte le coalizioni che stanno intervenendo in quelle aree di guerra, chiaramente con un supporto che è... No, il supporto lo so, ma la guerra si fa bombardando oppure scendendo sul terreno. Esatto, ecco. E siamo pronti noi. Dobbiamo essere politicamente pronti, militarmente lo siamo, la professionalità dei militari c'è tutta. Politicamente però, siamo vicini? Politicamente dobbiamo io credo, da rappresentante politico di un piccolo partito, certo, che c'è una debolezza che deve essere superata, ma che insomma è possibile che venga raggiunta. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Intanto, sul tema degli immigrati, della loro distribuzione, il presidente della commissione Jean-Claude Juncker ha proposto la redistribuzione tra 28 stati di 160.000 richiedenti asilo. Beh, però lo abbiamo sentito, ce l'hanno detto con chiarezza, senza gli hotspot alle frontiere esterne, cioè Italia e Grecia, per registrare chi arriva, questo non è possibile. Intanto Renzi ha detto sì alle risorse da destinare alla Turchia chieste da Juncker. Ecco, Sandro Gozzi, che è sottosegretario alla presidenza del Consiglio con la delega agli affari europei. Gozzi, ci spiega che cosa ha ottenuto in concreto su questo tema il premier Renzi nell'ultimo vertice con la Merkel? Beh, il successo di questo incontro, a mio modo di vedere, che è stato uno dei vari incontri, perché si è parlato soprattutto di Turchia, però adesso avere la Germania attivamente sulla linea dell'Italia, sia per quanto riguarda il controllo delle frontiere esterne, e cioè la idea di un corpo di polizia delle frontiere esterne che oggi sia la Germania che l'Italia sostengono con convinzione, sia la revisione delle regole di Dublino che oggi sia l'Italia e la Germania sostengono con convinzione, avere avuto questa convergenza, sì, a poche settimane dalla proposta della Commissione, appunto, sia sulle frontiere esterne che sulla revisione di Dublino. Vabbè, lei lo considera un successo. Senta, è un passaggio importante. Senta, chi dice che Schengen è sempre meno una bandiera e sempre di più un ostacolo è un gufo? No, propone false soluzioni. La soluzione non è smantellare Schengen. La soluzione naturalmente, è quello che sta capitando, però molti paesi lo mettono in discussione. Cioè un'Europa senza Schengen può esistere? No. L'Europa, ecco, senza Schengen non può esistere, perché l'Europa è innanzitutto libertà. Ecco, anche il Papa però ha detto che all'Unione Europea serve una rifondazione. Rifondazione è una parola forte. Quindi siamo arrivati a questo punto, perché dire che serve una rifondazione vuol dire che pannicelli caldi forse sono finiti. Beh, questo mi sembra che sia esattamente quello che dice anche il nostro Presidente del Consiglio. Io l'ho detta con una frase che è anche un impegno per chi ha il governo oggi: è tempo dei figli rifondatori, con tanto rispetto per i padri fondatori dell'Unione Europea, è tempo dei figli rifondatori. Sugli immigrati però stiamo fermi un attimo qua, non ci sono grandi accordi, perché il vicepresidente della Commissione Timmermans dice che il 60% dei richiedenti asilo non ha alcun diritto a ricevere lo status di rifugiato. Insomma, li considerano rifugiati per motivi economici. Lei è d'accordo su questi numeri? Beh, sono numeri questi di Timmermans, sono numeri molto alti. Sono numeri molto alti. Quindi lei non è d'accordo? Io credo che la situazione magari sia leggermente diversa, però in ogni caso è evidente che da una parte abbiamo un aumento elevatissimo delle domande delle richieste d'asilo politico, a causa innanzitutto della vicenda siriana, oltre che il coronavirus. Naturalmente. Dall'altra parte è evidente che in questi flussi ci sono tanti cosiddetti migranti economici che, se non hanno, appunto, non avendo il diritto di chiedere lo stato di rifugiato politico, devono essere rimpatriati. Ecco, Renzi, però, siamo, sì, molto indietro come Unione Europea. Ecco, Renzi però dice che sono in fuga dalla guerra, non dice che sono in fuga per motivi politici, lui dice che sono in fuga dalla guerra, e quindi questo gli fa onore nella sua posizione. Però, insomma, c'è una bella distinzione di numeri. Beh, Guardi, c'è una bella distinzione di numeri, ci sono vari aspetti da considerare. È evidente che chi scappa dalla guerra, chi scappa dai nazisti islamici di Daesh non può essere respinto perché ci sono ovviamente, i nazisti europei ovviamente. Nell'Unione Europea che gridano all'invasione. No, ma qui stiamo parlando dei numeri. Però insomma lei i numeri di Timmermans li contesta, non è vero che sono il 60%. Per sapere. Io non ho in questo momento le date, quindi faccio fatica a contestare dati. Mi sembrano molto, molto elevati. Molto alte. Senta, comunque, anche la Boldrini denuncia un sistema di riallocazione europeo che non funziona. Dice che gli stati membri non offrono le quote e non sono disponibili a fare la loro parte. Ed è il tema politico centrale. Perché nel momento in cui con molta fatica si raggiunge un accordo temporaneo, tra l'altro, che riguarda cifre relativamente basse, cioè 160.000 rifugiati politici, e neppure questo accordo temporaneo funziona, perché sono dei paesi che bloccano e che non accettano la redistribuzione, questo è un problema politico di fondo quindi, ed è un problema politico in Unione Europea. Bisogna assolutamente insistere su questa via. Per adesso nessuno in Europa, diciamola chiara, è disponibile a fare la sua parte. Quindi noi ce li teniamo, insomma. Oggi l'Italia ha fatto la sua parte, oggi la Germania sta facendo ora la sua parte. Ci sono dei paesi che non fanno nessuna parte. Berlino ha varato un nuovo pacchetto per limitare i flussi e rendere più difficile i ricongiungimenti. Quindi la Merkel, anche lei, mi sembra che ha cambiato un pochino strategia. Sui temi europei non mi sembra che la Germania... sul pacchetto per limitare i flussi. I ricongiungimenti familiari comunque sono delle norme europee, riguardano i flussi, ma sono delle norme europee che comunque non possono essere derogate, che vincolano allo stesso modo tutti gli stati membri, soprattutto quando si tratta di rifugiati politici o di beneficiari di protezione internazionale. Il punto è che la solidarietà non è in Europa a senso unico, è a doppio senso. Insomma, se ci sono i soldi per tutti va tutto bene, ma se bisogna essere solidali va un po' meno bene, diciamo un po' così. Ecco perché anche il Papa ha ragione quando dice appunto che l'Unione Europea va rifondata. Tra l'altro la solidarietà non è solo una bella parola, è un giuridicamente fatto. Vincolante. Certo, è un giuridicamente vincolante in base ai trattati. Ma vabbè, la Turchia questi 3 miliardi li ha avuti per bloccare le partenze, gestire i rifugiati. Abbiamo accordato, li sta avendo, li ha avuti tutti. Li ha avuti, li avrà, insomma, ecco. Sì. E ecco, la Turchia però chiede adesso il coinvolgimento della NATO per proteggere i confini, cioè si prepara un'azione militare di respingimento via mare o che cosa? Non penso che ci sia l'ipotesi. Cosa vuol dire coinvolgimento della NATO per proteggere i confini? Bisogna vedere esattamente che cosa intendono i turchi. Dal punto di vista dell'Unione Europea è imprescindibile e fondamentale avere una cooperazione molto forte con la Turchia, sia per quanto riguarda la gestione dei rifugiati, sia per quanto riguarda questa materia. Ma era una bestemmia, onorevole Gozzi, era una bestemmia chiedere quei 3 miliardi che sono andati alla Turchia, chiederli noi per gestire i rifugiati? Noi abbiamo chiesto che tutto quello che abbiamo fatto per la gestione dei rifugiati non venga computato come debito pubblico, non venga quanto fa? Allora guardi, vado a mente un 0,200, grosso modo, diciamo. Oltre i 3 miliardi. Oltre 3 miliardi e 100 milioni. Quindi diciamo li abbiamo avuti quei 3 miliardi. Visti in un altro modo, diciamo. Esattamente, stiamo dicendo che quanto abbiamo speso nell'interesse di tutta l'Europa non dovrebbe andare a gravare come debito pubblico. E questo passa a Bruxelles? E questo è un tema Dei temi caldi? Sulla quale la Commissione Europea sta facendo le sue valutazioni, come il commissario Moscovici ha avuto modo di dire, nei prossimi mesi valuterà e prenderà una decisione. Però non sembrano tanto amici quando parlano, sbaglio, forse sono io che... Guardi, non lo so, però diciamo che l'Italia sta cercando di farsi capire meglio in Europa, rispondo così. Senta, un'ultima cosa, noi abbiamo tutto pronto per un'azione militare in Libia se fosse necessaria? Questo lo deve chiedere al Presidente del Consiglio e ai membri del governo che se ne occupano. Lei non ha una sua opinione? Non è compito mio. E intanto Obama ieri ha chiesto al Presidente Mattarella uno sforzo maggiore nei teatri di crisi, offrendo però in cambio navi aerei per il soccorso in mare. Insomma, la NATO per il soccorso in mare. Si avvicina anche la NATO, quindi Mario, si avvicina anche la guerra? Prima dell'estate. prima dell'estate, entro primavera, se vogliono fare, diciamo, se vogliono quantomeno dare un po' di stabilità alla Libia, dovrebbero intervenire. In estate fa molto caldo. No? Non è un dettaglio, la geografia, il clima, incidono. Quando fai operazioni militari incidono. Ma Pietrangio, secondo te si avvicina? Ci sarà sicuramente una risposta, perché se si muove la NATO, dall'altro lato c'è la Russia, e la Russia è già nel Mediterraneo. E siccome me ne sono accorto, già dai giornali si capisce l'antifona, è cominciata la propaganda anti-Putin, anti-Russia. Vabbè, cominciata da moche. No, cioè, voglio dire, ma adesso è cominciata sul tema più delicato, cioè la guerra al terrorismo. È cominciata proprio su quella questione. Sono sicuro che ci sarà un colpo di scena. E non mi sorprenderebbe se perfino l'attuale pontefice fosse partecipe adesso con un'azione uguale a quella, va a Cuba. Uguale a quella che fece quando bloccò la guerra. Infatti, penso che l'incontro a Cuba, ne parleremo a lungo giovedì, l'incontro a Cuba tra il Papa e Cyril sia qualcosa che cambia un po' gli scenari del mondo. Una cosa su Putin. Sì. È una pia illusione poter pensare di mettere a posto, per così dire, la situazione in Medio Oriente senza Putin. Ma è impossibile. Quindi tutto quello che leggiamo è in realtà è propaganda, ecco, poi passa, i fatti sono altri. Non lo so, il Corriere oggi è convinto. Vabbè, ma non c'entra niente, il Corriere riporta notizie, cose eccetera, poi alla fine però, voglio dire, come altri, come Repubblica, ma poi 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS pubblicità. State ascoltando un programma offerto da Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Mix 24. Allora Pietrangelo, stamattina che ci fai sentire? Il destino. Who says I can't get stoned? Turn off the lights and the telephone. Me and my house alone. Who says I can't get stoned? Who says I can't be free from all of the things that I used to be? Rewrite my history. Who says I can't be free? It's been a long... Allora, e allora è il destino, appunto, che si affida a un solo linguaggio, che sono i segni, e il destino ha un solo quaderno dove tracciare i segni, e quel calepino è la notte, e quando la fa lunga la nottata, anche a essere un'ora o giù di lì, si è liberi da tutto ciò che si è di solito invece obbedienti esecutori. Ha chiamato Diuremat stamattina, ha chiesto questa canzone e l'ha dedicata alla sua greca con questo messaggio: greco cerca greca. Meet all the girls in the county line, wait on fate to send a sign. Who says I can't take time? Greco cerca greco. No, scusa, mi ricordo un annuncio sui giornali spagnoli. Quando eravamo ragazzini, andavamo in Andalusia per correre. Allora si compravano i giornali spagnoli e c'era Chico Busca Chica. Vai con la bolla, Mario. Vabbè. Andiamo in America. Chico Busca Chica. Signore, cosa ha combinato stamattina la guerrera con la musica? L'ho lasciata fare mentre scrivevo e ops, ne ha approfittato per mettere i Pet Shop Boys. Ve la ricordate? Questo è Domino Dancing, ma sentite un po'. Mazza, proprio anni 80 sputati. Mamma mia. Vabbè, ci sono le primarie New Hampshire, vorrei informarvi. Oggi situazione dei sondaggi al volo. Bernie Sanders in vantaggio su Hillary Clinton, pare anche in maniera consistente. Donald Trump è davanti a tutti tra i repubblicani, saranno confermati? Vedremo. Intanto segnalo che per la prima volta Michael Bloomberg, che è importantissimo sindaco di New York, nonché magnate dell'editoria, ha confermato al Financial Times che sta pensando di candidarsi alla corsa presidenziale. Quindi si avvicina alla sua candidatura. Si avvicina alla sua candidatura. Uno dei motivi, lui dice, della sua probabile, insomma, del suo probabile impegno è perché l'attuale dibattito elettorale è un insulto agli elettori. È vero, ha ragione, la campagna elettorale è più brutta che almeno io ricordi tra quelle che ho visto. Sì. Però vedremo Bloomberg che fa. È l'America. È l'America. È l'America. Salamino. Salamino. Domanda che mi domando, anzi dubbio su cui dobbiamo. Ci sarà pure Sanremo, ma la Rai è pur sempre la Rai, a prescindere, e perciò... Fatti più là, facendosi più in là Sanremo, il vero protagonista della Rai è Michele Anzaldi. Ha ragione. È vero. Sì, è uomo di punta del renzismo, membro della commissione vigilanza Rai. Oh, che succede? Oh. Parla con Fabrizio Roncone del Corriere della Sera e c'è a chi le dà e a chi le promette. Ronconate. Domanda che ci domandiamo, dubbio che dobbiamo. Allora, per esempio, Anzaldi su Antonio Campo dall'Orto e su Monica Maggioni, certo, rispettivamente direttore generale e presidente della RAI, dice, virgolette, dopo sei mesi dobbiamo ammetterlo, ci siamo sbagliati. Vabbè, è un giudizio un po' frettoloso. Frettoloso, dubbio, frettoloso dubbio su cui dobbiamo, però... La domanda è: Renzi ha indovinato o ha sbagliato queste nomine? Per esempio, sul Capodanno anticipato, vabbè, lui prende di mira direttamente il direttore di Rai 1, difende Azzalini, dice l'unico a pagare è stato quel povero disgraziato, mentre Giancarlo Leone è ancora lì. Poi dubbio che dobbiamo, dice, diamo un senso al canone. Diamo un senso al canone che paghiamo in massa. Dubbio che dobbiamo, sarà contro la Leosini. Poi contro Carlo Freccero, contro Andrea Vianello, contro il TG3 e poi anche contro... Questa è la colonna sonora dell'onore e del rispetto. Ovvero sia il tono trionfale che conduce ai fasti e al successo Gabriele Garco. Si chiama così, Gabriele Garco. Gabriele Garco. Protagonista di Sanremo. E giustamente, dubbio che dobbiamo, Anzaldi dice, è normale che sia la RAI a lanciare gli attori di Mediaset, perché oltretutto dopo Sanremo su Canale 5 ci sarà una fiction. Vabbè, non c'è ancora il controllo pieno della programmazione, non ha ancora fatto il suo palinsesto. Giovanni, però dubbio che dobbiamo, dubbio che dobbiamo, e domanda che ti domando, Giovanni. Renzi, che però mai ha smentito Anzaldi, da oggi lo fa, mai, ha forse sbagliato le nomine? Domando. Uomini liberi che decidono da soli, quindi vanno visti all'opera, vanno visti all'opera. Però, adesso ha avuto il potere, tra poco farà il suo palinsesto, dirà che cos'è il servizio pubblico e ci spiegherà perché bisogna pagare il canone in esclusiva alla RAI. Questo chissà, è un tema. Questo è un bel tema. Sì. Mi pare che avanzi questo tema. Domandiamolo. Avanzi nel senso che non avanza. Che non avanza, comincia. Canzoniere? Canzoniere, che c'è? Non lo so. No, non c'è la canzone. Ah, non c'è la bolla. Volete una bolla? Farina di frumento, zucchero, uova, sciroppo, di glucosio, zucchero, proteine del latte, polvere lievitante, aromi naturali, vanillina. 800240024 il numero verde, 349-238-6666 l'SMS pubblicità. Mix 24. Allora Mario, c'è ancora una bolla? Un po' di notizie dalla Germania anticipate da un po' di musica. Questo è un po' meglio, brava Gloria. Questo è Franz Ferdinand, che non è il famoso calciatore, ma un'altra cosa. Take me out. E allora? Se stanno a pugnalare in regia, vabbè. Ok, domani torna un po' di classici rockettari. La Germania rallenta perché in dicembre ha fatto meno 1,2. Però, come sempre, io dico, guardate i risultati dei 12 mesi, non un mese, cioè i conti si fanno poi alla fine. Beh, sono risultati nel 2015 incredibili. Pensa, l'export tedesco ha fatto più 6,4%, avanzo commerciale 248 miliardi, 1196 miliardi di euro di esportazioni. Insomma, mi pare, no? Vabbè, la Germania va bene, beata lei. Ah, la Germania è un paese forte, con fondamentali grandi. Noi è vero che la critichiamo qualche volta, però grande, grande organizzazione, non c'è niente da fare. Quanto di questa organizzazione, di questa grandezza è succhiare dall'Europa anche un po'? Beh, insomma, noi siamo il primo partner commerciale. Pensa solo, se non acquistassero i nostri prodotti, come starebbe bene il nostro PIL. Quindi, però, grande forza, hanno raddoppiato in un'ora la quota di emissioni possibili per salvare la Volkswagen in certo, Europa. Non solo quella, grande, tutte le industrie automobilistiche, grande lobby. Alessandro da Milano, Alessandro, buongiorno. Buongiorno a voi. Che ci dici? È il titolo del canzoniere. Sì. Vittorio Gasma che legge i frullini. Giusto, bravissimo. Com'è che l'ha riconosciuto? Beh, diciamo che nei pomeriggi in verità i compagni, mentre studiavo all'università, capitava molte volte di vedere. E adesso che fa, Alessandro? Adesso sono praticante avvocato. Vita dura, forza. Bene. Allora, adesso come sempre col professor Roberto Bernabei commentiamo le notizie più importanti di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina, le frontiere della ricerca. Annals of Internal Medicine, gennaio 2016. L'agopuntura per le vampate in menopausa. La menopausa è un momento cruciale per ogni donna e la menopausa è accompagnata da una sintomatologia che può essere molto fastidiosa. Certamente quella del disturbo del tono dell'umore, del sentirsi in qualche modo meno donna, è una cosa che impaccia la vita delle donne. Ma poi c'è un fatto proprio tipico, che sono le vampate di calore, che sono un disturbo che può alterare la vita di relazione, perché ti vengono improvvisamente mentre magari stai facendo un'altra cosa, comportano vergogna, disagio. E quindi l'idea di poterle in qualche modo curare senza il rimpiazzo della terapia ormonale, che qualcuno continua a consigliare per periodi perlomeno brevi, è un obiettivo certamente ragguardevole. E allora si è visto se l'agopuntura potesse aiutare. Allora un gruppo di donne, oltre 300 donne con più di 40 anni e quindi in menopausa, sono state sottoposte a 10 trattamenti durante 8 settimane di agopuntura, con un gruppo di controllo in cui veniva fatta un'agopuntura finta, dove non c'era la vera inserzione del laghetto che viene utilizzato. Si è visto, dopo la fine delle 8 settimane del trattamento, che il 15% delle donne nel gruppo agopuntura, ma lo stesso il 15% delle donne che avevano fatto un'agopuntura finta, stavano un po' meglio. Quindi dati che non convincono per nulla, non serve a nulla, e certamente ci dice che le vampate rimangono e che l'agopuntura non le cura. E per chiudere sentiamo Gloria Guerrera, cosa ci propone? Oggi ascoltiamo una canzone per chi confonde ancora il sentimento con la sopportazione e l'amore con la pazienza. Anna Oxa. C'è una ragione che cresce in me e l'incoscienza svanisce. È come un viaggio nella notte finisce. Dimmi, dimmi, dimmi che senso ha dare amore a un uomo senza pietà. Sentito finito, che non ha mai perduto mai per te una canzone, mai.